Parte seconda. La visione economica di Devana. La storia dell'economia si può dividere in alcune filosofie fondamentali, prime tra tutte e contrapposte tra loro, il capitalismo e il comunismo. Il primo prevede che il capitale sia concentrato nelle mani di pochi e che la massa, scontenta perché non può godere di tutto ciò che desidera in abbondanza, viva con uno stipendio minimo rispetto alla quantità di denaro di cui godono in pochi. Il comunismo, invece, cambia sistema, ma centralizzando la gestione del capitale ritorna alla situazione di prima, seppure in maniera ipocrita, perché si maschera. In questa seconda impostazione economica, la proprietà privata è stata abolita e in teoria i beni dovrebbero essere suddivisi in maniera equa, secondo i bisogni, in nome di una uguaglianza di diritto. Tuttavia, anche qui la massa è scontenta perché il comunismo si caratterizza per la sua posizione atea. E questo è l'errore di base. In una società atea, la massa può avere solo valori di riferimento materiali e proprio questi aspira, senza tuttavia poterli ottenere. In questa società, l'essere umano non possiede, ma agogna possedere. Come si può pretendere che l'essere umano rinunci spontaneamente alla sua proprietà se i suoi valori di riferimento sono esclusivamente materiali? In nome di quale ideale che non ha, dovrebbe accettare questo sacrificio? Per poter rinunciare alla proprietà privata, come vedremo, è necessario un salto di qualità a livello di coscienza e un distacco dalla materia che la politica comunista di sicuro non prende in considerazione. È necessario unire economia e spiritualità. L'assenza di spiritualità è proprio ciò che impedisce a queste due filosofie economiche che finora hanno tenuto banco nell'umanità, il capitalismo e il comunismo, solo in apparenza contrapposte, come abbiamo visto, di funzionare. L'assenza di spiritualità è la causa prima sia del rivolgersi al materialismo come valore assoluto, sia del monumentale sforzo per accumulare capitale. L'assenza di spiritualità è responsabile della mancanza di motivazione, tanto alla condivisione di ciò che si ha quanto alla rinuncia ad accumulare beni. Quando un essere umano crede solo nella materia, non ha nessun valido motivo per rinunciare spontaneamente e con gioia ad accumulare o a comprare quanti più beni può. Gli manca la tensione verso un ideale più alto, quell'ideale che spinse Campanella, Tolstoi e Gandhi a non rinunciare nonostante le difficoltà e le grandi prove, e che portò Rosa Luxemburg al martirio. In una società materialista, la rinuncia alla proprietà privata non nasce dal profondo dell'anima come condizione necessaria a un sistema di vita più alto e nobile, bensì è un obbligo imposto dallo Stato, spesso con coercizione e violenza. Quindi, in entrambi questi due casi estremi, l'economia si risolve in una fortissima concentrazione di beni nelle mani di pochi, latifondisti, industriali, militari, burocrati, per nulla motivati al benessere della massa, ma solo ad accrescere il proprio potere, e nel corrispondente livellamento verso il basso, economico, culturale ed emozionale, della massa. Per quanto riguarda le società non estremiste, le finte democrazie in cui viviamo sono sistemi economici e politici basati sulla deprivazione della volontà e della capacità decisionale. Gli esseri umani, convinti di essere liberi nelle democrazie occidentali, si lasciano manipolare dai media e diventano macchine per consumare qualsiasi cosa il diavolo del marketing decida di rendere un bene di primaria importanza, senza trovare in se stessi la forza di porsi domande e di operare rifiuti allo shopping compulsivo. Per confermare questa descrizione cinica ma vera, basti pensare che nel linguaggio del marketing si usa l'espressione creare dei bisogni, viene insegnata nelle facoltà di economia e commercio, cioè far nascere nelle persone la necessità impellente di possedere qualcosa che ancora non esiste, ma che presto sarà messo sul mercato dagli stessi che ne hanno creato il bisogno. Appunto. Qualcosa senza il quale solo fino a poco prima si viveva benissimo e la cui mancanza ora provoca crisi e sconforto. Il marketing manipola i cervelli come pasta per pane, li appiattisce verso il basso, li uniforma e li spoglia di ogni capacità critica. Il marketing costringe a utilizzare gran parte del proprio tempo e della propria energia per guadagnare denaro al fine di comprare beni di cui non abbiamo realmente bisogno, e che fa sì che le aziende, anziché spendere i loro soldi per migliorare i prodotti, li spenda per pubblicizzare prodotti di bassa qualità. Il denaro è una convenzione tra membri della stessa razza. Siamo abituati a definire il denaro in molti modi: frutto del lavoro, valore del lavoro, corrispettivo, remunerazione e ora anche energia, secondo il nuovo linguaggio della scienza evolutiva. In realtà il denaro è solo una convenzione tra membri della razza umana. Non ha un suo valore intrinseco se non quello che noi gli diamo, tant'è vero che la svalutazione e l'inflazione portano la stessa moneta ad avere sempre meno valore. Non è il denaro che si rimpicciolisce, ma il suo valore che diminuisce, poiché noi gliene attribuiamo sempre meno di valore. Lo stesso bene che 10 anni fa si comprava con una moneta X, oggi si compra con una moneta 5X. La moneta X è sempre la stessa, non si è ristretta, ma ce ne vogliono 5 per comprare lo stesso bene. Questa considerazione dovrebbe portarci a comprendere quale grande illusione sia il denaro, quale effimera convenzione che potrebbe in un istante essere eliminata dalla faccia della terra senza che le cose cambino. Nel mio quarto viaggio sulle Ande, nel marzo 2008, ho assistito a un fenomeno davvero interessante. Sono entrata in una farmacia di Cusco per comprare le pastiglie contro il mal d'altura, il famigerato Sorogi, che colpisce gli stranieri non abituati all'altitudine. La cifra da pagare era di 5 soles, la moneta locale. Tirai fuori le monete e ne contai 5 da un sol sul banco della farmacia, ma la commessa ne accettò solo 4 e mi disse che la quinta era falsa. La prese in mano e me la mostrò, insieme a una di quelle vere, tra virgolette, e mi chiese di osservare la differenza. Io osservai attentamente, ma non riuscii a percepire nulla di diverso tra le due. Comunque non discussi, cercai un'altra moneta e gliela diedi. Uscii con le mie pastiglie e il sol che mi era stato rifiutato. In quel momento mi si avvicinò una campesina, una donna del popolo, quelle con la bombetta in testa, le trecce nere e la gonnellona colorata, per vendermi dell'acqua. Comprai una bottiglia e pagai un sol. Senza nemmeno riflettere, le diedi il sol falso, tra virgolette, che mi era stato rifiutato nella farmacia. Ella lo prese, ringraziò e se ne andò. Dopo qualche istante realizzai che l'avevo pagata con moneta falsa e la seguii per avvertirla. La seguii per un po' perché camminava molto veloce. Da lontano la vedevo camminare fino a che non si avvicinò a un'altra campesina che vendeva pane e comprò 5 pezzi di pane, pagandoli con quella stessa moneta falsa che io le avevo dato. L'altra donna intascò senza fiatare, ringraziò e si allontanò. Questo semplice fatto mi convinse di quanto il denaro non abbia un valore suo proprio, ma sia solo il frutto di una convenzione. Tra campesino, i soles erano tutti uguali, nessuno li aveva informati che c'erano in giro monete false. Per loro erano tutti uguali perché la loro convenzione era diversa, quindi la stessa moneta falsa per la società cuschegna era invece buona per la comunità indigena. Compresi che se tutti i membri della razza umana si accordassero per utilizzare come forma di moneta, per esempio, delle banane, quei piccoli oggetti circolari di metallo per i quali tanto sospiriamo, o quei pezzi di carta con dei numeri scritti sopra, improvvisamente non avrebbero più alcun valore. Tutti quanti avremmo scambi commerciali a suon di banane. Sembra buffo, ma è proprio così. Il vero valore del denaro è solo quello che noi gli diamo. E in una società dove il valore umano si misura in base al denaro che ciascuno possiede o è in grado di guadagnare, è naturale che il denaro diventi importantissimo. Chi ha molto denaro vale molto. Chi non ne ha non vale nulla, anche se possiede grandi talenti. In una società dove solo i calvi fossero considerati uomini di valore, Albert Einstein sarebbe stato una nullità. Ecco perché il denaro è così importante per noi. È la misura di ciò che valiamo. Il denaro è il prodotto della paura. Ma analizziamo più approfonditamente cos'è il denaro. Esso è la garanzia scritta che chi ha eseguito un lavoro per produrre un bene o servizio al quale viene attribuito un certo valore potrà, in un tempo differito, ottenere, grazie a quel pezzo di carta, un bene o un servizio prodotto da qualcun altro del valore pari al suo. Il pezzo di carta rispondente al concetto di denaro rappresenta la garanzia, il certificato che io potrò ottenere in un tempo differito, attenzione, un certo bene dello stesso valore di quello che ho prodotto io. Un bene di cui ho bisogno e a cui ho diritto, poiché a mia volta ho lavorato per un valore pari all'ammontare scritto sul pezzo di carta. Analizzando bene, dunque, il denaro è la mia garanzia e ciò che mi mette al sicuro per il futuro. Senza denaro, infatti, il mio diritto potrebbe venirmi sconosciuto, dimenticato, e io potrei perdere il diritto e la possibilità di ottenere in un tempo differito il corrispettivo del mio lavoro di oggi. Quindi io ho bisogno di una garanzia, poiché ho paura che nel tempo il mio lavoro e il mio diritto vengano dimenticati. Solamente sconfiggendo la paura e la diffidenza troveremo la via per l'età dell'oro. Soffermiamoci ora per un momento ad osservare ciò che succede in natura. Un fiore non paga nulla alla terra per il suo nutrimento e non chiede di essere pagato per ciò che a sua volta lui stesso dona alla terra. Gambo e fiore come cibo per gli animali erbivori, polline e semi che si propagano attraverso le zampe degli insetti e le feci degli animali per la nascita di altri fiori. Il tutto avviene in maniera assolutamente gratuita e perfetta. La geniale economia della natura, nella quale ogni sua parte vive soddisfatta e al meglio la propria vita, ottimizzando le sue potenzialità, si chiama ecosistema e non ha bisogno di denaro come garanzia. Nell'ecosistema, cioè in un sistema senza denaro, non esistono ingiustizie, poiché ogni creatura tiene per sé solo ciò che le serve, lasciando il resto alle altre creature che ne godranno dopo di lei. Un mirabile esempio di ciò si riscontra tra i carnivori della savana. Le leonesse uccidono un antilope e ne mangiano la carne fino a saziarsi insieme ai cuccioli e al maschio. Poi abbandonano ciò che resta della carcassa alle iene, che si cibano della pelle, della testa e di tutte le altre parti che i grandi felini non avevano mangiato. Quando anche le iene sono sazie, sul terreno rimangono solo le ossa e a questo punto subentrano gli sciacalli che le divorano, traendo il loro nutrimento dal ricco midollo. In questo modo dell'antilope non rimane più nulla e nulla viene sprecato. L'erbivoro ha nutrito una decina di carnivori. Non c'è accumulazione, non c'è inquinamento, non c'è ingiustizia, non c'è denaro e tutti si sono adeguatamente sfamati. Chiunque rifletta con un po' di buon senso e cerchi di risalire alla causa prima dell'ingiustizia e dell'inquinamento scoprirà che essa risiede nell'accumulazione di denaro e nel concetto stesso di denaro come garanzia. Enormi aree vengono sottratte all'agricoltura e al pascolo per essere destinate alla produzione di beni inutili e inquinanti. Così, per poter produrre i suoi alimenti, l'uomo ha dovuto intensificare la produzione in aree sempre più marginali, utilizzando componenti chimiche in sempre maggior quantità, metodi industriali tossici, pesticidi, concimi artificiali, conservanti e antigerminanti, nonché metodi di allevamento del bestiame brutali e controproducenti, tutto per garantire la copertura del cosiddetto fabbisogno alimentare. Dico cosiddetto perché la sovralimentazione a cui ci siamo abituati ci incoraggia a riempire le tavole e le dispense di cibo artefatto, talmente artificiale da non contenere alcuna proprietà nutritiva e spesso reso tossico dall'utilizzo di chimica per renderlo gradevole al gusto. Coloranti, conservanti, addensanti, esaltatori di sapidità, aromi artificiali. Tutto questo fa parte dell'infernale logica del consumismo e dell'accumulo anche di cibo. D'altronde le date di scadenza sui prodotti alimentari, sempre più ravvicinate, convincono i consumatori a buttare cibo ancora buono, con l'unica finalità di far lavorare le fabbriche di cibo e mantenere profitti e posti di lavoro. Tornando alla metafora della natura, Di recente ho avuto una visione di come nella economia matrifocale la piramide, che è lo schema patriarcale, dove esiste un alto e un basso, una base massa ampia che mantiene sulla sua testa una piccola punta elite, dovrà essere sostituita e verrà sostituita dalla società floreale matriarcale, ossia una società ispirata al fiore della vita. La vita è la dea madre e il fiore della vita la sua manifestazione visiva. Non ha basi né punte, bensì è sferico. Nella sua forma piatta mostra chiaramente che ogni petalo può appartenere a due diversi centri e nel suo aspetto sviluppato in volume addirittura ogni petalo può appartenere a molti centri. Il fiore della vita è l'aspetto che assumeranno le comunità matrifocali, come detto, che peraltro sono già vissute sul pianeta per centinaia di migliaia di anni nell'epoca paleolitica e neolitica. Il fiore della vita, sviluppato nel volume, è sferico e quindi speculare in ogni sua parte. Dal nostro punto di vista, il cambiamento avverrà quando ognuna e ognuno di noi diverrà consapevole di essere un petalo di questo fiore collegato agli altri, ossia quando la spiritualità e l'economia potranno essere coniugate. Senza elite né masse popolari, consapevole che ogni pensiero e azione emessa da ogni singolo petalo si ripercuote su tutto il fiore, attraverso i collegamenti tra i petali stessi. Le comunità floreali saranno l'espressione sociale della quinta dimensione, della dimensione dell'unità. La coscienza del petalo si sviluppa in ognuna e ognuno di noi a partire dal centro, dall'ombelico fisico, per ampliarsi a sfera attraverso tutto il nostro essere, fino a comprendere il tutto. E poi preparo perché ho anche fame, tra l'altro. Il denaro è il prodotto della paura e la paura è frutto dell'identificazione con l'ego. Una cellula del corpo umano non chiede denaro come corrispettivo del suo lavoro, essa lavora per il benessere generale del corpo, ovvero della comunità nella quale vive, insieme ad altre cellule che beneficiano del suo lavoro e che nel contempo, a loro volta, garantiscono la sua esistenza con il loro lavoro. Scrive la scienziata Giuliana Conforto in LUH, Il gioco cosmico dell'uomo, a proposito della cooperazione istintiva e naturale tra le cellule degli organismi: ogni cellula è composta da miliardi di particelle, è una struttura capace di comportamento coerente, di un collettivismo spontaneo che riduce le dissipazioni e assicura il benessere complessivo. Tutte le particelle contribuiscono alla sua fisiologia globale. Ogni cellula è un cristallo biologico, un insieme di miliardi e miliardi di atomi posti, tuttavia, non in modo disordinato, ma secondo una geometria regolare. Le cellule di un organo e gli organi dell'organismo si comportano con un collettivismo e un sincronismo analogo. Non c'è contrasto tra individuo e collettività, né competizione tra individui, bensì una perfetta auto-organizzazione, coerenza, trasparenza cristallina, prosperità diffusa a tutti e una naturale abilità a riprodursi. Ogni corpo biologico potrebbe partecipare all'armonia eterna e immortale trasmessa dal messaggio genetico se solo l'individuo ponesse ascolto a se stesso. In una comunità ogni membro lavora con l'unica finalità del benessere generale, sapendo che da questo dipende anche il suo benessere personale. Ma se invece l'essere vivente non si sente parte di una comunità, bensì percepisce se stesso come entità separata e sola nel combattimento per la sopravvivenza, in altre parole, se la coscienza di quella creatura è centrata sulla sua personalità egoica, anziché sul tutto infinito del quale fa parte, essa avrà paura di non ricevere dagli altri ciò di cui ha bisogno, poiché non penserà mai che altri possano lavorare per soddisfare il suo bisogno e nel contempo per il loro proprio benessere. Ecco che allora, quando questa creatura sentirà il bisogno di dimostrare, senza ombra di dubbio, poiché non si aspetta buona fede da parte degli altri, che ha lavorato e prodotto e pertanto che ha diritto a godere, a titolo di remunerazione, del frutto del lavoro di qualcun altro per un ammontare pari al valore del lavoro suo. Fa questo esibendo un pezzo di carta sul quale è stato scritto da qualcuno il valore del bene cui ha diritto come remunerazione del suo lavoro, e questo pezzo di carta è il denaro. In questo modo la creatura non ha più paura che il suo lavoro sia dimenticato o svalutato, poiché il denaro protegge il suo diritto. Il corrispettivo del suo lavoro è stato scritto su un pezzo di carta e rimarrà nel tempo. Scripta manent. In sostanza, la coscienza individuale, centrata sulla personalità egoica, lavora per il soddisfacimento del suo benessere personale. Invece, la coscienza collettiva, centrata sulla totalità del sistema, un sistema olistico, se vogliamo definirlo così, dal greco holos, che significa tutto, lavora per il soddisfacimento del benessere collettivo, poiché da questo dipende il suo benessere personale, essendo i due intimamente legati, connessi e interdipendenti. Capitalismo e consumismo come degenerazione della paura. A questo punto la questione si va sviluppando. Se accettiamo che il denaro sia un prodotto della paura e frutto della falsa convinzione di essere soli, in base a questo assioma il valore di ogni prodotto varierà a seconda del tempo e della quantità di lavoro e di materiale impiegati per ottenerlo. Pertanto i beni avranno valori monetari diversi tra loro. Per questo chi produce, per esempio, mele del valore X ciascuna, sa che per ottenere una casa come frutto del suo lavoro di coltivatore di mele dovrà vendere un numero di mele pari, diciamo, a 1 milione, che gli frutti 1 milione di X, perché tale è il valore della casa. Così ha inizio l'accumulazione del capitale. Il marketing per poter vendere mele anche a chi non ne ha bisogno, con l'unico scopo di affrettare la raccolta del numero dei pezzi di carta su cui sta scritto X, fino ad averne abbastanza per poter comprare una casa. L'accumulazione, a causa della paura, degenera in capitalismo, ovvero nella esasperata accumulazione di denaro per dimostrare la propria bravura e il proprio valore. Più si accumula denaro, più si è bravi e meritevoli di lode e considerazione. Più si è meritevoli di considerazione, più si ha potere. Così il denaro diventa uno strumento per acquisire potere, con cui si ottiene altro denaro e altro potere, così via all'infinito, in una morsa sempre più stretta che fa del denaro, del possesso del denaro, una droga. Dalla paura discende, come altra forma degenerativa, anche il consumismo. Il consumista usa il denaro non per ottenere qualcosa di cui ha realmente bisogno, bensì per acquisire beni che colmino il suo vuoto esistenziale e che siano agli occhi degli altri la prova lampante del suo valore. In sostanza, più beni posso mostrare di aver comprato, più dimostro visibilmente che ho molto denaro e quindi che valgo. Il mio consumo è quindi il risultato della paura che gli altri non sappiano quanto sono brave e meritevole di considerazione. In Perù, che è stata la mia palestra spirituale e la fucina dalla quale traggo e ho tratto infinita ispirazione, ho osservato questo processo nelle comunità indigene. Il turismo ha portato denaro sulle Ande, ma la popolazione indigena non usa questo denaro per migliorare il suo stile di vita introducendo igiene, miglior cibo o studio. Essi continuano a vivere sporchi, malnutriti e analfabeti, però si comprano il telefono cellulare. Potete immaginare un campesino andino, spesso lacero e sporco, che non si è mai mosso dal raggio di 5 chilometri dalla sua capanna, né mai si muoverà, parlare al cellulare con un altro campesino nelle stesse condizioni, che sta vendendo acqua o frutta ai turisti a poche centinaia di metri di distanza? Prima di analizzare quanto succede in una comunità dove invece economia e spiritualità si sono incontrate, cosa che farò nel prossimo capitolo, Vorrei spiegare come fare per eliminare la paura. Per ottenere uno stato d'animo libero dalla paura e quindi dal bisogno di denaro come fonte di sicurezza. La paura è sempre collegata alla solitudine. Chi si sente solo crede di non poter contare sul supporto di alcuno. Chi si sente invece parte di un grande organismo sano e operativo sa che i suoi bisogni troveranno piena soddisfazione in ogni momento. Esattamente come il piede destro sa che nel momento esatto in cui si alzerà dal suolo per muovere un altro passo, ci sarà il piede sinistro saldamente ancorato alla terra per garantire l'equilibrio di tutto il corpo. Una comunità di questo tipo è una comunità spirituale, nella quale ogni membro si sente una molecola di un corpo più vasto, parte di un cosmo che ha una vita propria, dove tutte le componenti, il sole, la terra, gli animali, l'aria, il fuoco, le stelle e così via, mosse da un'intelligenza superiore e assolutamente armoniosa, lavorano per il benessere comune. Quando una creatura si sente realmente e profondamente parte di un grande corpo intelligente, immediatamente smette di avere paure, dubbi e apprensioni. Sa, infatti, che la sua esistenza, come tutte le altre del resto, è mossa da un'intelligenza suprema, il cui unico fine è la massimizzazione del benessere generale. In quest'ottica non ha più alcun senso premunirsi con il denaro contro le incognite che il futuro ci riserva. Ognuno svolge gioiosamente il suo lavoro e lo fa per il bene dell'intera comunità. La spiritualità, ovvero la coscienza di essere molecole di un grande corpo perfetto, è l'unica via che può consentire la vera, universalmente e gioiosamente accettata abolizione del denaro, dell'accumulazione di beni e capitali, della proprietà privata e in ultima analisi della paura di essere soli. Vedremo tra poco come poter incontrare questa via e distaccarsi dalla paura. La spiritualità è la vera ecologia. La fine del consumismo e dell'accumulazione e il trionfo di una società ecosistema basata sull'amorevole utilizzo delle risorse e sulla loro libera condivisione, nella misura in cui servono realmente e non oltre, è legata alla nascita di una società spirituale, ovvero di una società che abbia spostato la sua coscienza dall'individualità egoica alla comunità intesa come organismo sistema. Quando una creatura sa di poter contare in ogni momento sul soddisfacimento al meglio delle sue necessità, richiede e consuma solo ciò di cui ha realmente bisogno in quel preciso momento, lasciando il resto agli altri. Questo perché ciascuno sarà cosciente che un suo abuso porterà ad un generale squilibrio del quale finirà per essere vittima lui stesso. Inoltre, non avrà bisogno di accumulare una gran quantità di qualsiasi cosa, poiché non avrà paura di poterne restare privo. Egli sa che il suo bisogno sarà sempre, istantaneamente, soddisfatto nel migliore dei modi, con un prodotto fresco, appena realizzato e non inquinato. I generi alimentari non avranno più ragione di essere inondati di conservanti chimici, poiché sarà sempre possibile avere cibo fresco nella misura in cui serve. Cessando l'accumulazione, cessando di riempire il frigorifero di cibo finto e inutile che serve a soffocare la paura, si comincerà a mangiare meno e a godere il cibo di stagione in una quantità molto ridotta, poiché l'80% del cibo che ingoiamo non serve al sostentamento della nostra macchina biologica, ma solamente a colmare i nostri vuoti emozionali per un brevissimo periodo di tempo. La produzione di beni e servizi nella giusta misura e non oltre porterà alla fine di un sistema industriale disumano, inquinante e incompatibile con l'ecologia e con l'economia femminina. Questo sistema industriale, infatti, produce beni e servizi da immettere sul mercato in quantità sempre maggiore e inutile alla vita, con l'unico scopo di conservare un trend di produzione che però aumenta in continuazione, poiché continua ad aumentare la quantità di beni immessi sul mercato e resi appetibili dal marketing e dai media. È la storiella dell'ubriaco che beve per dimenticare di bere. Il grande inquinamento prodotto soprattutto dall'industria agroalimentare è provocato dalla produzione di più merce di quanta se ne consumi in realtà o di quanta ne serva. I tranelli del marketing, come il famigerato 3x2, sono trabocchetti per far sì che la gente si riempia la casa di cose che non servono solamente perché è convinta che non le sta pagando. Tuttavia, sebbene i soldi non escano direttamente dalla tasca nel momento dell'acquisto, il sovraccarico di beni si paga alla lunga con la congestione del sistema, come ha pronosticato lucidamente Rosa Luxemburg. Sistema che diventa sempre più una macchina fagocitante e con l'inquinamento che riguarda tutto il genere umano, nessuno escluso, come vedremo meglio nel prossimo capitolo. In tutti i settori della produzione è possibile un ritorno a una lavorazione naturale e non inquinante, a una riduzione drastica dei beni prodotti, riducendo il numero dei pezzi, conseguentemente alla fine del consumismo. Ecologia, poi, significa anche ecologia della mente, del pensiero. Nella economia spirituale femminina, ognuno fa ciò per cui si sente portato, artigianato, agricoltura, imprenditoria o arte che sia. Pertanto, ognuno non può non pensare in positivo e avere la mente libera da stress e ansia, depressione, tristezza e quant'altro. Abbiamo detto che la mancanza di vocazione fa sì che i beni non siano prodotti in modo ottimale, perché l'attività viene svolta malvolentieri. Nella società economica, invece, i prodotti e i servizi saranno perfetti, poiché ognuno fa esattamente ciò che gli piace. E pertanto non si stufa e non si stanca. Oltretutto è libero di fermarsi quando ritiene di aver fatto abbastanza, al meglio delle sue possibilità. Quindi ci sarà meno merce in circolazione, ma di maggior qualità, più duratura, meno inquinante, più gratificante, più eco-compatibile.